Ma soddisfatta credo che significhi pochissimo, francamente. Voglio ricordare che sono state 716 votazioni solo sugli emendamenti, sugli articoli. Altro che maggioranza traballante. Un testo del governo sul quale davamo un parere ampiamente positivo, che è stato ulteriormente arricchito dagli emendamenti prodotti dalla maggioranza in commissione e in aula. E io credo che quello che viene fuori è una finanziaria molto equilibrata, che va incontro ai bisogni delle imprese ma anche ai bisogni delle famiglie. Voglio ricordare che ci sono circa 1.300 miliardi scusate, 1 miliardo e 300 milioni di aiuti sociali, di misure di carattere sociale, misure per l'occupazione, misure per il mezzogiorno, alcune decine di miliardi per le infrastrutture. È un capitolo importante che è quello del taglio dei costi della spesa pubblica, quello che viene detto normalmente costi della politica. Una finanziaria molto seria, il frutto di un lavoro molto serio di una maggioranza coesa.